A bordo campo di Dario Ricci. C'è un filo rosso che lega l'Italia al Sudafrica. È un luogo particolare, colmo di ricordi, memoria e storie che dall'Italia sbarcarono dall'altra parte del mondo. Questo posto è Zonderwater, senza acqua, un altipiano intorno ai 1600 metri, siamo a circa 100 km da Pretoria, e a spiegarci che cosa è stato e che cos'è Zonderwater per gli italiani in Sudafrica è Carlo Annese. Benvenuto a bordo campo, Carlo. Grazie. Collega, giornalista della Gazzetta dello Sport, che ha scritto un libro preziosissimo proprio per l'opera di restauro della memoria a cui contribuisce, I diavoli di Zonderwater. Libro edito dalla Sperling & Kupfer. Carlo, che cos'è Zonderwater per gli italiani in Sudafrica? Ma innanzitutto è un buco nero della nostra memoria, stranamente, e comincia da qui la mia ricerca. Tra il 1941 e il 1947, in quell'altopiano, come giustamente dicevi tu, a circa 1600 metri d'altezza, ci sono stati 94.000 prigionieri di guerra italiani, che erano stati catturati sui fronti dell'Africa orientale e dell'Africa settentrionale, quando allora c'era l'impero mussoliniano. È un buco nero perché nessuno ne ha più parlato, eppure lì una intera generazione di 20, 22enni, 25enni, anche trentenni ha trascorso un periodo molto importante della propria vita. Eh sì, quasi si può parlare della meglio gioventù, no? Quella parte di quella meglio gioventù italiana che sacrificò se stessa nella Seconda Guerra Mondiale, che si trovò improvvisamente, come conseguenza del conflitto, sradicata e trasferita in un ambiente del tutto estraneo, no? Come si organizzarono i prigionieri lì? Cos'era Zonderwater nei fatti? Si organizzarono all'italiana, nel vero senso della parola, cioè riuscirono a mettere in campo la creatività, la straordinaria capacità di adattamento, l'arte di arrangiarsi, nel vero senso della parola, perché in quel campo c'erano tende. All'inizio, diciamo fino al febbraio-marzo del 1943 c'erano soltanto tende, fin quando non è cambiato il comandante generale e di fatto è cambiata la vita di tutti quei prigionieri, perché Hendrik Frederik Prinsloo, che era un comandante boero illuminato da uno straordinario spirito di umanità e così di disponibilità anche nei confronti dei prigionieri, decise di abbattere le tende dove gli italiani vivevano in condizioni veramente disagiate, e fece costruire dagli stessi prigionieri delle baracche in muratura con dei tetti di alluminio. Lo spirito umanitario viene fuori soprattutto dal resto. Prinsloo voleva che i prigionieri fossero attivi fisicamente e mentalmente. Mens sana in corpore sano, quanto mai è stato vero in questa occasione. E quindi, appassionato di sport, volle che praticassero gli sport, appassionato di musica lirica, volle organizzare concerti, ci furono 22 teatri, 27 compagnie teatrali, scuole. In quel campo di concentramento circa 9.000 analfabeti tra i prigionieri italiani impararono a leggere e a scrivere con compagni di ventura come insegnanti. 2005 presero il diploma di scuola elementare, centinaia di altri impararono un mestiere, ma fondamentalmente fecero molto sport. Fu organizzato un campionato, nel vero senso della parola professionistico, perché ad un certo punto, siccome le squadre cominciavano ad essere purtroppo numerose, visto che i prigionieri continuavano a crescere, ad aumentare, si utilizzarono i regolamenti in vigore nella Federazione Gioco Calcio Italiana nel 1940. E il campionato principale, che è quello che poi dà in un certo senso il titolo al mio libro, fu disputato da 11 formazioni, che erano le migliori, i migliori giocatori del momento. Questo significa che nei vari blocchi, perché in gruppi, proprio in veri e propri quartieri era organizzato il campo, ce n'erano a decine in grado comunque di giocare. C'erano giocatori dalla Serie C fino alla Serie A, e quindi insomma era una grandissima realtà. Eh sì, insomma, è una storia che ci riporta alla mente quella della Macana Football Association, no? Che abbiamo più volte raccontato qui a Radio 24, ma della Lega calcistica creata dai prigionieri a Robben Island, ma è una storia questa tutta italiana. Ecco Carlo, è per questo, insomma, da giornalista sportivo non è assolutamente paradossale che tu ti sia occupato di un pezzo così importante della nostra storia. Tanti prigionieri, dicevamo, che vanno a reinventare la loro vita e sono chiamati a reinventarsi la loro vita a Zonderwater, tanti anche campioni di quello che è lo sport italiano, vero? Vogliamo fare qualche nome? Sì, il nome più importante è quello di Giovanni Manca, che all'epoca era, quando è stato catturato, era campione dell'impero dei pesi medi e poi è stato campione italiano dopo la guerra e nel 1948 ha tentato vanamente di combattere con Marcel Cerdan, l'amore della vita di Edith Piaf, e fu messo KO quasi subito. Contro di lui l'8 settembre del 43, perché intorno a questo alla fine ruota il libro, combatté Gino Verdinelli, la pantera di Velletri, lo chiamavano così, perché vinse in realtà un campionato di terza categoria italiano a Milano nel 1940. C'erano degli atleti che avevano gareggiato alle Olimpiadi, sempre nel pugilato e poi soprattutto nel calcio. Il protagonista principale che accompagna in questa storia si chiama Giovanni Vaglietti ed era uno dei boys del Torino. Ed era il capitano dei Diavoli Neri, che vinsero per 3 anni consecutivi il campionato, diciamo lo scudetto di Zonderwater. E un altro personaggio che effettivamente alla fine della guerra giocò nella Juventus tra il 1947 e il 1949 si chiamava Araldo Caprilli, era un terzino sinistro alla Cabrini, straordinario. Per farvi capire quanto è forte questo legame, chiedo a Carlo anche di indicarci quelli che sono i legami che poi sono arrivati ai giorni nostri, no? Mi vengono in mente 2 cognomi, Tricoli e Marcello Fiasconaro, che ha una storia, ce l'ha raccontata in parte anche qui a Radio 24, che proprio a Zonderwater affonda in qualche modo le proprie radici, vero? Allora, Tricoli è il creatore della scuola scrimistica di Jesi, da cui sono venuti fuori i campioni olimpici come Cerioni, la Trillini e la Vezzali. E la cosa incredibile è che Tricoli abbia imparato lì, in prigionia, a tirare di scherma. Non l'aveva mai fatto prima. Lo ha fatto prima incitato da un sottufficiale sudafricano e poi con un medico italiano, perché a Zonderwater c'era un ospedale con 3.000 posti letto. Ed era un anatomopatologo che era appassionato di scherma e gli insegnò tutto. E molto spesso Tricoli, nelle rare interviste che concedeva quando i suoi ragazzi vincevano, faceva sempre il suo nome. Marcello Fiasconaro è il figlio di un baritono che si chiamava Gregorio e che fu prigioniero, fu uno dei primi ad essere catturati, fu abbattuto con l'aereo e fu rinchiuso in un campo a circa 600 km da Zonderwater che si chiamava Pietermaritzburg. Vanamente il comandante Prinsloo cercò di farlo cantare a Zonderwater, il suo pari grado di Pietermaritzburg glielo negò per sempre. È vero, storie che fanno venire i brividi a ricordarle oggi. Carlo, ci raccontavi queste storie che testimoniano anche come poi molti italiani prigionieri a Zonderwater si ricostruirono la propria vita di fatto in Sudafrica, no? È proprio il caso di Fiasconaro. Non tutti tornarono in Italia, anche perché molti iniziarono in qualche modo a conoscere ciò che l'Italia fino a quel punto era stata, no? A rendersi conto di quello che era stato il fascismo, a percepire quanto sbagliata fosse quella guerra e quindi ad approfittare delle occasioni che il mondo nuovo sudafricano metteva loro a disposizione. Subito dopo la fine della guerra, 828 italiani di quelli che erano stati rinchiusi a Zonderwater, grazie ad un accordo fra i due governi, chiesero di rimanere in Sudafrica. Tra questi appunto Giovanni Vaglietti, il capitano dei Diavoli Neri. Gregorio Fiasconaro ha una storia ancora più avventurosa, perché il giorno in cui stava per imbarcarsi, il giorno prima dell'imbarco per tornare a casa, decise per la prima volta nella sua vita di giocare a tennis. Si sentì male perché ebbe un attacco di ernia addominale. È una cosa purtroppo frequente per i cantanti lirici. fu operato, rimase lì per 60 giorni e perse tutte le navi che l'avrebbero potuto riportare indietro. Nel frattempo si era fidanzato con una ragazza sudafricana e quindi rimase lì. E effettivamente il Sudafrica per molti, anche successivamente, perché parecchi di quei prigionieri ritornarono a distanza di tempo, è stata una grande opportunità di vita. Oggi cos'è Zondervater? Tu che l'hai potuto già vedere, che hai conosciuto, analizzato, sfogliato quelle carte, quei ricordi, riaperto quegli album di fotografie? Allora, oggi fisicamente Zondervater ospita tre prigioni civili. C'è un carcere di massima sicurezza, c'è un carcere minorile e c'è un carcere di media sicurezza. Quindi continua ad essere adibito a questo uso, anche perché l'altopiano è veramente isolato e desolato ancora oggi. C'è un museo all'interno di un cimitero nel quale sono 252 le salme di prigionieri italiani. Mi sono reso conto che al di là di questo aspetto fisico, per i parenti e per i pochi sopravvissuti che sono riuscito a ritrovare, Zondervater è un pezzo importantissimo della propria vita. Molti veramente non solo hanno sentito il racconto continuo, ma si sono resi conto che i propri genitori, i propri zii, i propri nonni lì hanno vissuto comunque bene il periodo della prigionia, hanno imparato non soltanto il rispetto nei confronti degli altri, ma sono riusciti a superare un periodo difficilissimo della propria esistenza, perché essere nel momento in cui l'Italia si divide l'8 settembre a migliaia di chilometri di distanza da casa, non avere assolutamente idea di che cosa stia veramente accadendo, perché c'erano delle radio clandestine, quindi si riusciva a sapere soltanto qualcosa e di parte, e creò un'enorme confusione nella testa di queste persone, molte delle quali erano contadini, erano appunto analfabeti, quindi non si erano formati ancora un'idea ben precisa. E obiettivamente, attraverso lo sport, riuscirono a trovare occasioni di comunicazione, di comunità, di socializzazione molto importanti. Eh sì, lo sport fu il terreno comune, no? Per riannodare i fili che la guerra aveva strappato. Sì, assolutamente, e fu anche il terreno di vero confronto. L'8 settembre del 43 Manca era un monarchico, Verdinelli era considerato dai fascisti irriducibili il loro gladiatore. Quindi in scena, davanti a 30.000 spettatori, molti dei quali venivano dall'esterno del campo, perché Prinsloo decise di aprire i cancelli e fare arrivare i civili, in prevalenza italiani, si affrontarono, nel vero senso della parola, schierandosi con uno o con l'altro. Quindi in realtà quel campo rappresenta l'Italia di quel momento. Beh, grazie a Carlo Arnese per essere stato nostro ospite e soprattutto per aver realizzato questo libro che quantomeno racchiude in qualche modo queste pagine di storia. Però prima di lasciarti, Carlo, ti chiedo un'ultima cosa. Abbiamo provato a riepilogare la storia di Zondervater, a capire che cosa è stato questo campo, questa pagina di storia per gli italiani di allora lì. E per l'Italia di oggi, cosa rappresenta questo ricordo? Il problema è che non c'è un ricordo, ed è questa la cosa, come ti dicevo prima, che mi ha spinto a cercare ancora di più. È un motivo per capire perché tanti prigionieri, come quelli che sono stati rinchiusi lì, nella nostra storia sono soltanto dei numeri. Non rappresentano un patrimonio della nostra esistenza, invece lo rappresentano, e come, sono una parte essenziale, sono una parte pensante, sono una parte che per esempio ha contribuito all'economia dei paesi nei quali sono stati tenuti prigionieri. In Sudafrica 30.000 di questi prigionieri rinchiusi a Zondervater hanno lavorato per le fattorie esterne, hanno lavorato per le imprese. Oggi rappresenta il ricordo di quel periodo per il Sudafrica, è rappresentato da strade, da ponti, è rappresentato da gallerie costruite nelle montagne, tutti costruiti dai prigionieri italiani che nel frattempo, nei momenti liberi, riuscivano a giocare a calcio. Sembra strano dire nei momenti liberi per prigionieri, ma era così. Grazie Carlo per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. A bordo campo. Sono Marco Davide, ho 29 anni, Nata classe 80, ho vinto i campionati italiani di pugilato quest'anno. L'avete sentita dalla sua viva voce, parliamo oggi di pugilato ed ospitiamo a bordo campo qui su Radio 24 una campionessa italiana. Benvenuta a bordo campo e direi anzi meglio a bordo ring a Marzia Davide. Buongiorno Marzia. Grazie, buongiorno. Marzia, allora raccontaci un po' come nasce questa tua passione per la box. Beh, a parte che io a 10 anni ho iniziato con la kickboxing, quindi ho fatto un percorso di ben 12 anni nella kick. Nel 2002, con l'evento del pugilato femminile in Italia, ho deciso di provare anche questo sport da ring, dove un po' fortunata, un po' di bravura, abbiamo cominciato ad incamerare risultati anche in questo sport. Beh, direi di tu parli di fortuna, però il palmarès dice tutt'altro, perché 44 incontri, 3 sole sconfitte, vice campionessa mondiale nel 2002, campionessa europea nel 2003 e nel 2004 e diversi titoli italiani in bacheca. Insomma, c'è anche del talento, eh? Beh, sicuramente quella è una cosa innata, perché un campione lo devi avere dentro per diventare, però giustamente anche la fortuna ci vuole, diciamo è un misto di situazioni, di emozioni che si devono conciliare tutte nello stesso momento per far sì che questo avvenga. Tanti sport, dalla danza a discipline sicuramente più associate e associabili, diciamo, all'universo femminile, ma come si arriva a salire sul ring? Io ti dico che ho provato anche la danza, ho provato anche il judo all'età di 5-6 anni, però così, sai, il mio istruttore è papà, quindi diciamo forse ho voluto un po' emulare la sua strada, perché lui è istruttore di kick e poi quando ho deciso di fare il passaggio a pugilato ha preso il brevetto come istruttore, ma forse te l'ho detto un po' perché i figli tendono comunque a prendere esempio dai genitori, a voler emulare il papà, poi mi sono trovata dentro, a parte perché mi piace, è uno sport che mi piace. Diciamo subito che allora Giovanni Federico, il tuo bambino di 3 anni, potrebbe in questo caso emulare la mamma, dovesse scegliere i guantoni, no? Beh, io lo spero, perché poi se il talento ce l'ha, ben venga, se poi non ce l'ha, uguale, va bene uguale. Ecco, è difficile immagino conciliare ring e il ruolo più tradizionale di mamma, no? Beh, difficile è una parola un po' grande, forse un po' faticoso, perché comunque devi far conciliare un po' il tutto, gli orari suoi, giustamente che lui l'80% vuole la mamma, un bambino, e poi giustamente inserire negli spazi i miei allenamenti, però è tutto da, diciamo, ecco, da programmare, non è difficile da farlo, se uno lo vuole fare si fa. Senti, ma è più complicato mettere KO le avversarie o i pregiudizi che ancora accompagnano la box femminile? Sicuramente è più difficile i pregiudizi che accompagnano sta box, però anche se stanno scemando adesso, perché comunque abbiamo dimostrato che anche noi donne possiamo fare tranquillamente. Che effetto ti fa quest'anno incredibile dello sport azzurro? Abbiamo visto i tuoi successi e quelle anche la popolarità raggiunta dalla box femminile, ma poi i successi delle pallavoliste, i successi delle tenniste, poi le ginnaste, delle nuotatrici, neanche a parlarne, Alessia Filippi e Federica Pellegrini. Ci aiuti a capire come mai, insomma, noi maschietti ci ritroviamo ad inseguirvi? Sempre detto, secondo me noi donne siamo più determinate, quando decidiamo di fare qualcosa ce la mettiamo tutta per far sì che questo avvenga, forse è solo questo che ci distingue un attimino, un po' più di determinazione noi donne, solo questo. Ti pare poco, insomma, bisogna anzi imparare da voi, ma senti, visto che tu hai nelle mani anche un po' il tuo mestiere, ti è mai capitato invece di rimanere coinvolta in una rissa e di dover utilizzare le tue capacità pugilistiche per tutt'altro, insomma? Fortunatamente no, io infatti diciamo dal ring a sotto sono totalmente diversa da come sono sul ring, io sono molto pacifica, no, non mi piace mettermi in discussione, evito appunto se vedo, come si può dire, mal fumo, evito, mi allontano perché non fa parte proprio di me questo tipo di personalità, ecco. Dicevamo, casalinga, 29enne di Ponte Cagnano, provincia di Salerno. Al sud come viene visto questo, la box al femminile? Perché la Campania in particolare, per esempio Marcianise, è un po' la culla della box al maschile, ma come venite viste invece voi ragazze che vi avvicinate al ring? Beh, diciamo che inizialmente ci sono state molte persone che hanno un po' sparlato di questo pugilato, sa, ci voleva giustamente mettere un attimino in difficoltà. Però sta cambiando anche qui la mentalità, infatti diciamo noi diamo l'esempio, siamo l'eccezione che conferma la regola, quindi diamo un po' l'esempio a altre donne che devono diventare anche loro emancipate come noi. Hai già avuto modo di incontrare grandi campioni di Marcianise come Russo, Valentino, siete in contatto, hai chiesto qualche consiglio? Siamo incontrati, ci conosciamo, sono state anche a Milano ad aprire le finali dei campionati mondiali maschili, perché proprio per questo debutto olimpico, diciamo questo riconoscimento olimpico, quattro atlete a livello mondiale siamo state selezionate per poter far sì, diciamo, che le persone prendano visione di questo pugilato femminile, e quindi siamo andati a Milano ad aprire queste finali maschili, dove lì ho incontrato Russo, Valentino, Cammarelle, diciamo i campioni olimpici e mondiali adesso. Ecco, ma non è che avete tirato pure due pugni, no? Tanto per scaldarvi. No, quello è impossibile, perché poi fisicamente siamo diversi, le categorie sono diverse, la forza fisica è diversa tra uomo e donna, quindi è impossibile fare una competizione uomo e donna. Facevi riferimento proprio a quello che sarà il futuro prossimo del pugilato femminile, che è stato per la prima volta ammesso ai Giochi Olimpici di Londra 2012. So che avevi in testa una mezza idea di ritirarti, perché insomma, bello lo sport, tante soddisfazioni sul ring, ma anche tanta fatica. Questa prospettiva olimpica cambia tutto, no? E beh, questa prospettiva olimpica ti apre anche le porte, diciamo, a livello economico. Perché ha detto adesso, lo sport purtroppo è sacrificio, sia fisico sia economico, perché quando ti devi spostare, ti devi muovere, quindi tu affronti delle spese, e fino ad oggi il pugilato non è che ci permetteva di vivere, però con l'evento olimpico penso che le cose dovrebbero cambiare. Il mio sogno olimpico è stato sempre il sogno nel cassetto che ho avuto da quando ho iniziato questo sport. Quindi adesso finalmente è arrivata, c'è la possibilità di poter far parte di questo sogno, speriamo che arriveremo a 2012 e ce la metteremo tutta per prendere magari una medaglia. Bisogna prendere una medaglia, bisogna prendere anche 3 kg, no? Perché tu finora hai vinto nella categoria 57 kg e invece alle Olimpiadi, tra le 3 categorie ammesse per le donne nel pugilato, quella più facilmente raggiungibile è quella dei 60 kg. Dal punto di vista fisico, come bisogna lavorare per prepararsi a questo sogno olimpico? E mettere massa muscolare sicuramente, quindi diventare più forte, perché poi sai, al 60 trovi comunque le ragazze più grandi, fisicamente più toste, quindi mettere massa muscolare e tanto tanto allenamento. Il tuo successo, il tuo sogno olimpico è anche il risultato degli sforzi fatti da altre grandi campionesse che sono state le precorritrici, no? del pugilato in rosa italiano, come Stefania Bianchini, Simona Galassi. Da questo punto di vista è un ambiente solidale quello del pugilato femminile, siete in contatto, vi scambiate consigli, che tipo di rapporto c'è con queste campionesse che già hanno aperto la strada verso il professionismo? Diciamo con la Bianchini io la conosco solo di nome, non ci ho mai parlato, non ci ho mai fatto allenamento. Invece con la Galassi sì, perché lei prima di passare da professionista era un dilettante come me, quindi stavamo in squadra insieme, ci allenavamo, stavamo diciamo quasi sempre insieme, andavamo a fare le gare insieme. Beh, una ragazza un po' come me, anche lei con la voglia di affermarsi e di portare risultati. Brava anche lei, giustamente. Marzia, dovessi esprimere 3 desideri per il pugilato, per il futuro del pugilato femminile in Italia, quali sono le prime 3 necessità, i primi 3 sogni che vorresti immediatamente concretizzati? Beh, sicuramente una stabilità economica, poi, che è la cosa più importantissima, un po' di visibilità per far sì che questo pugilato cresca, perché i media stanno un po' lontani, ecco. E il terzo sogno nel cassetto di far sì che possano uscire tante campionesse del mondo e tante campionesse olimpiche a livello italiano. Allora Marzia Davide, con l'augurio che questi sogni si realizzino il primo possibile, io ne aggiungo un altro, direi a questi tre aggiungerei un sogno a cinque cerchi, un sogno olimpico da concretizzare a Londra 2012, magari come ti ritraggono le foto in questi giorni col braccio sollevato verso il cielo e Giovanni Federico nell'altro braccio per festeggiare una medaglia a Londra 2012. Speriamo, speriamo. Grazie Marzia di essere stata ospite di Radio 24 di A Bordo Campo. Grazie a voi, arrivederci. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it e riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it. Vi ricordo anche il doppio appuntamento di A Bordo Campo. Sabato prossimo saremo ancora insieme con la seconda puntata dello speciale A Bordo Campo in vista delle Olimpiadi di Vancouver 2010, appuntamento alle 13.15, invece poi la domenica alle 14.30 torna A Bordo Campo con le abituali piccole grandi storie del mondo dello sport. Allora 13.15 speciale A Bordo Campo in vista di Vancouver 2010, domenica alle 14.30 le piccole grandi storie dello sport, sempre insieme, sempre A Bordo Campo. Un saluto da Dario Ricci.